Dottora Nedda, chiedo subito a lei, perché ovviamente diciamo che questo rialzo dei tassi era un po' prevedibile, ce lo aspettavamo un po' tutti. Posso dire che questa mattina l'Euribor a 3 mesi è 1,35 e 6, quindi via via va aumentando, aveva già scontato l'aumento fatto ai primi di aprile, sicuramente già sta scontando il prossimo aumento e lo vediamo subito tutti, almeno noi che siamo titolari di mutui a tasso variabile, lo vediamo via via ogni giorno che passa. Sì, certamente, come diceva giustamente lei, l'annuncio era nell'aria da tempo e non sarà certamente l'ultimo, anche nel breve, intervento sui tassi. Questo perché in qualche modo l'economia, almeno a livello internazionale, si muove, anche se con velocità diverse, in più tutta una serie di avvenimenti anche a livello internazionale fa sì che salgano prezzi delle materie prime che a loro volta fanno aumentare l'inflazione e ormai abbiamo ben imparato che quando in Europa sale l'inflazione la BCE inevitabilmente si muove proprio perché ha come suo compito principale proprio quello di contrastare l'eccessivo Certo, aumento dell'inflazione. dell'inflazione, anche se su questo poi si accendono discussioni molto accese su quanto dovrebbe fare la Banca Centrale Europea anche in Ah, relazione certo. ovviamente alla crisi e alla ripresa della crisi, però dobbiamo dire per correttezza che nel suo statuto istitutivo c'è scritto che si deve occupare dell'inflazione, mantenere la massa monetaria sotto controllo e quindi adempie a questo compito. Dottor Crivellari, avete avuto negli ultimi tempi sentore che c'è maggiore difficoltà da parte delle famiglie, ancor prima che la Banca Centrale Europea aumentasse il costo del denaro? Le difficoltà delle famiglie sono iniziate con la crisi, sono iniziate con il peggioramento del reddito medio delle famiglie a causa prevalentemente della disoccupazione che è aumentata. Già da qualche anno, dal 2008, 2009, 2010, abbiamo famiglie che vedono i loro redditi ridotti per effetto, per esempio, della disoccupazione che ha colpito i loro figli che, con contratti precari e quindi hanno incominciato a fare i conti con delle rate di mutuo che erano state fissate in momenti in cui c'erano redditi maggiori e c'era maggior ottimismo oltretutto.